Ci sono voluti 1000 anni prima di discutere sul termine naturale, prima di tutto perché la lingua italiana ha circa 1000 anni, e poi perché il XXI secolo è iniziato all'insegna della perdita del significato di molte parole, tra le quali appunto il termine naturale. Etimologicamente parlando, il termine naturale significa relativo alla natura, e per questo noi diciamo di avere dei bisogni naturali o appetiti naturali, come il mangiare, bere, dormire, procreare, in antitesi ai desideri superflui come ubriacarsi o drogarsi. Parliamo di eventi o fenomeni naturali, come la pioggia o il vento, in contrapposizione alla pioggia o al vento creati da appositi macchinari dell'uomo. Inoltre vi sono laghi o parchi naturali in opposizione a quelli costruiti dall'uomo che sono definiti artificiali. Infine parliamo di figli naturali in opposizione ai figli legittimi, quelli cioè che non sono stati generati dai genitori. Esprimendoci in questo modo, con il termine naturale vogliamo riferirci a qualcosa che è in natura o conforme all'ordine della natura, senza per questo fare necessariamente un giudizio morale, e non intendendo che le cose siano tutte uguali o debbano esprimersi nello stesso modo. È naturale che un albero da frutta porti i suoi frutti sui rami rivolti verso il cielo, come è naturale che una carota abbia il suo bulbo sottoterra. E conforme a natura che un passero stia su di un ramo, come è naturale che un pipistrello invece sia appeso ad un ramo con la testa all'ingiù. Ogni animale si esprime secondo inclinazioni sue proprie insite nel suo patrimonio genetico, inclinazioni chiamate appunto naturali. Così è naturale che un uomo cammini sui piedi con le proprie gambe. Tuttavia, volendo spostarsi sulle palme delle mani, cosa che non è impossibile, lo può fare, ma non possiamo dire che il muoversi con le gambe all'insù sia naturale. Anche se un giorno la maggioranza degli uomini per una moda o per qualsiasi altro motivo andassero sulle palme delle mani, questo resterebbe un fatto innaturale e che difficilmente metteremmo in relazione al verbo camminare, che nella nostra mente dà l'immagine di un percorso fatto a piedi. Se poi si vorrebbe coniare un termine che avrebbe a che fare con il muoversi sulle palme delle mani, questo termine potrebbe anche essere palmare, ma non certamente camminare. Stabilito il significato del termine naturale, ora occorre considerarlo nell'ambito delle relazioni sessuali per capire se quella tra omosessuali è naturale oppure no. È evidente che lo sia secondo gli omosessuali, i quali usano questo termine in corrispondenza ai loro rapporti pensando di sottrarsi a qualsiasi valutazione morale. Infatti, in una qualsiasi conversazione con degli omosessuali, definiti anche omosentimentali oppure omoaffettivi, non è possibile parlare di giusto o ingiusto, di peccato o di bene, perché a priori essi non accettano nessuna legge o codice morale e, ligi al loro principio, si difendono sostenendo che il loro rapporto non può essere giudicato da coscienze moralizzate da una qualche religione. Per gli omosessuali, meno e non solo loro, meno la morale è un fatto soggettivo, e tutto ciò che viene dettato da una legge di qualche divinità è da ritenere soggettivo e perciò opinabile. Sempre per gli omosessuali il peccato è tale solo se uno crede in Dio, ma se uno non crede in Dio non esiste più l'errore né il peccato. Un ragionamento questo che fa acqua da tutte le parti, perché è come dire che il divieto di transito in una strada è valido solo se io credo al codice della strada. Ma se non credo che esista il codice della strada, il divieto per me non è più valido. La mia incredulità non annulla una legge stabilita dallo Stato, come la mia incredulità nella legge di gravità. Non annulla una mia caduta al suolo se mi getto nel vuoto. Perciò chi pratica l'omosessualità dovrebbe piuttosto cercare di informarsi se esiste una legge che possa approvare o disapprovare la sua espressione in campo sessuale, piuttosto che trincerarsi dietro le proprie convinzioni. Molto probabilmente la maggioranza di persone che praticano l'omosessualità avrà cercato una risposta a questo interrogativo, ma a causa del rifiuto verso il dio trino della Bibbia, e la sua morale, dove l'omosessualità è condannata, sembra non esserci soluzione a questo dilemma. Eppure, suo malgrado, l'omosessuale praticante è condannato anche da un'altra legge che Dio stesso ha stabilito e che è meno per assurdo l'omosessuale stesso chiama a sua testimonianza, cioè la legge naturale. Infatti, se ci rifacciamo a ciò che è naturale, esso è soggetto ad una legge o a più leggi. Dato che nessun evento sfugge a delle regole stabilite, sia che le conosciamo, sia che non le conosciamo. Non è a caso che gli uccelli migratori svernino in un momento stabilito in un preciso luogo che non hanno mai visto, come non è un caso che molte femmine desiderino accoppiarsi in un certo periodo per poter figliare quando la natura è propizia per la sopravvivenza della specie. Coloro che praticano l'omosessualità dimenticano che la sessualità non è affatto una caratteristica propria a loro unicamente, al contrario. Essi sono circondati da un universo dove quasi tutto è espresso mediante dei fenomeni relativi al sesso. Infatti, secondo la parola di Dio, che gli omosessuali devono ascoltare con rispetto finché non saranno in grado di offrire una spiegazione più logica riguardo all'esistenza dell'universo nell'ultimo giorno della restaurazione della Terra, Dio creò l'uomo in Adamo ed Eva, e cioè un maschio e una femmina, due esseri con caratteristiche sessuali diverse ma complementari. Forse ci sfugge che già dal terzo giorno l'Eterno Dio aveva creato delle cose sessuate, vale a dire aventi caratteristiche maschili e femminili. Egli creò infatti la verdura e le piante, che avevano in sé il proprio seme, in pratica avevano la capacità di riprodursi. Poi, il quinto giorno, creò degli animali che vivessero nell'atmosfera e nell'idrosfera, e in grado di riprodursi. Infine, il sesto giorno creò degli animali per la litosfera e, per ultimo, l'uomo. La sessualità non è una caratteristica da riferirsi unicamente alla razza umana. Essa appartiene anche al regno animale e vegetale. Perciò, per verificare se i rapporti sessuali fra omosessuali sono secondo natura oppure no, occorre prendere in esame il comportamento sessuale di tutto il creato. E dato che in natura il femminile è attratto dal maschile, per forza di cose è possibile dire che l'omosessuale si esprime in modo contrario all'ordine della natura, ossia che la sessualità espressa tra gli omosessuali è contro natura. Tale conclusione non deriva da una valutazione moralistica di un credente di qualsiasi religione, ma è la semplice conclusione di una valutazione della realtà che ci circonda. Come non è una valutazione moralistica ritenere contro natura chi si sposta mediante l'ausilio delle mani, non è neppure per forza di cose una valutazione etica ritenere che i rapporti omosessuali siano contro natura. Se poi gli omosessuali come reazione morale si offendono, perché devono offendersi o risentirne se si sostiene che la loro unione è contro natura? Se loro hanno il diritto di ritenersi offesi perché valutano l'espressione contro natura, una diffamazione o una umiliazione, perché non lasciano agli altri il diritto di esprimere il loro parere, fosse anche morale. Se invece gli omosessuali sono offesi davanti all'accusa di agire contro natura, perché pensano che la loro espressione sessuale sia da ritenere lecita e simile a quella degli eterosessuali, perché allora non generano dei figli come gli eterosessuali, per forza di cose, o gli eterosessuali o gli omosessuali agiscono contro natura e, senza tanto indagare, è palese che siano gli omosessuali praticanti ad esserlo. Ma il vero ostacolo in merito all'opinione sulla liceità dell'unione fra omosessuali non deriva dagli increduli, ma dal versante di coloro che si ritengono cristiani. In un periodico evangelico, una donna chiese ad un teologo molto noto e stimato per la sua cultura biblica che cosa fosse oggi peccato. E la risposta ad un certo punto della lettera era la seguente. Lei mi chiede di dirle sinceramente se l'omosessualità sia peccato, oppure no. Le dirò sinceramente che secondo me non lo è, anche se so benissimo che la Bibbia lo considera tale. Ma perché la Bibbia considera l'omosessualità un peccato? Perché gli autori biblici ritenevano che l'omosessualità fosse una scelta. Noi oggi sappiamo quello che gli autori biblici non sapevano e neppure lontanamente supponevano, e cioè che l'omosessualità non è una scelta ma una condizione. e questo cambia tutto il discorso. La risposta di questo teologo lascia molto stupiti, perché non credo che ignori il fatto che un conto è essere omosessuali, altra faccenda è dare sfogo alla propria inclinazione sessuale. È vero che alcuni nascono con tendenze omosessuali, ma meno, e bisogna sottolinearlo, meno, si tratta di una minoranza. Un amico omosessuale, infatti, mi ha confidato che nei loro incontri è più facile trovare degli eterosessuali che dei veri omosessuali, sintomo questo di un'evidente libidine perversa. Resta sempre il fatto che coloro che nascono con un'inclinazione sessuale innaturale non per questo siano autorizzati a praticarla, altrimenti sarebbe come dire che poiché alcuni nascono cleptomani, sono autorizzati a rubare a causa della loro condizione. È bene tenere presente che ciascuno di noi nasce con dei limiti a diversi livelli o con degli handicapitolo. Perché non considerare allora l'eventuale tendenza omosessuale con la quale si è venuti al mondo un limite naturale come tanti altri con i quali convivere? Ricordiamo che la Bibbia non condanna l'omosessuale per le proprie inclinazioni diverse, ma ha condannato e condanna chi pratica rapporti omosessuali definendoli vizi con Nuovo Testamento R.O., l'Antico Testamento U.R.A., Giuda 7, Romani 8 e 26, mentre i rapporti sessuali leciti tra un uomo e donna li definisce relazione in Antico Testamento URALE. Romani 8 e 27. Il teologo ha perso di vista che nascere omosessuale è sì una condizione, ma è una scelta rapportarsi sessualmente con individui del proprio sesso. Nessuno è obbligato ad avere relazioni sessuali, soprattutto contro natura, come non si deve sfogare il proprio bisogno sessuale a danno degli altri e della società, come nel caso di uno stupro. E per comprendere meglio ancora che la relazione degli omosessuali è contro natura, è sufficiente domandarsi se è lecita una relazione sessuale di un uomo adulto con una bambina di 6 anni. A parte il fattore morale, perché in certe culture potrebbe anche non essere sconveniente, ma è secondo natura, la natura può permettere una relazione simile? La risposta è no, perciò la conclusione più ovvia è che una relazione di un uomo adulto con una bambina è contro natura. Non è una valutazione moralistica, ma semplicemente una constatazione di ciò che è o non è conforme all'ordine della natura, come la relazione fra omosessuali. E di questo tutti, omosessuali compresi, devono tenere conto. Aprile 2007. Ellero.